Funtime Radio presenta Ludico Forum. Carissimi amici di Dietrologia Videoludica, bentornati a questa nuova live che trovate ovviamente sul canale Dietrologia Videoludica, che abbiamo ripescato dai meandri della nostra storia. Quindi iscrivetevi, attivate la campanella, mettete like, commentate sia in chat che sul video, soprattutto condividete, date una mano a crescere anche questo nostro progetto. Ma vi ricordo che questo podcast, questo episodio che state sentendo, come tutti gli altri che vanno sul canale Dietrologia Videoludica, poi ve lo ritrovate come podcast audio su Ludico Forum. Prima di presentarvi gli ospiti, i partecipanti con me a questo episodio, vi do insomma delle anticipazioni, che domani sera saremo live sul canale di Runtime Radio, sempre su YouTube, con un episodio di Quando Eravamo Futuro dedicato a un giorno in ufficio del 1979. Quindi racconteremo insomma usi, costumi, comportamenti e tecnologie dell'epoca. Ma soprattutto vi ricordo che venerdì sera Marco e Olivia hanno visto Mad Heidi e quindi ne parleranno insomma in questo episodio live sul loro canale, quindi quello di Ho Visto Cose, e poi troverete tutti quanti i link sui vari canali di Runtime Radio. Heidi, ti sorridono i morti, questo è il titolo insomma di questo fantastico episodio che ovviamente insomma sarà qua sui nostri fantastici canali. Ma questa sera noi non siamo qua per parlare di Heidi o di Gazzi e Mazzi, ma siamo per parlare di un gioco. Avrete sicuramente notato, innanzitutto mi scuso se qualcuno c'ha dei problemi col vecchio link, spero che abbiate capito che c'è un nuovo link, perché evidentemente il software Scavalcate le 21, quindi sono partito io in ritardo, quindi la responsabilità è la mia, Scavalcate le 21 perde il link con il video che era stato programmato. C'è il nuovo link, ve l'abbiamo distribuito, spero che qualcuno arrivi a vedere questo episodio, insomma, ma anche piano piano durante la giornata. Il titolo era Segrate, prossima fermata Baldur's Gate. Perché? Perché noi ci abbiamo riso tantissimo, noi prendiamo sempre in giro i nostri amici milanesi, perché diciamo che lì dalle loro parti ci hanno spurgate, corcate, smangiate, quello insomma tutti questi posti si chiamano così, e quindi abbiamo voluto giocare con Baldur's Gate, che ovviamente è Baldur's Gate, e parleremo di Baldur's Gate. Con chi non fare questo episodio se non con due pezzi da 90 di questa nostra di questo gioco in particolare, ossia Leonardo Alauin, del suo relativo canale insomma Alauin, giustamente. Buonasera, ciao, sempre un piacere tornare da voi a farvi un po' di compagnia. Infatti, grazie per l'invito. Infatti, perché Leo, lo ricorderete, è già stato due volte con noi, se non sbaglio, due o tre volte circa. Due. Una era con mitico Ciriola, già, esatto. E un'altra volta con Deborah. Quindi salutiamo anche Pixel Deb, canale suo Pixel Deb. Andate, attivate la campanella, iscrivetevi, condividete, like. E la stessa cosa ovviamente su Halloween, si scrive con la Y. Non fate come facevo io all'inizio, dicevo non trovo sto cazzo di canale, e invece ero stupido semplicemente. E c'è invece qua sotto, vedete proprio qua sotto, Carmine, anche detto Puccio Console o Console, secondo te. Sì, il mago di Segrate, visto che siamo anche tu. L'imitazione lo potete capire dalla barba assolutamente casuale, dai capelli che tendono, vabbè, non parliamo di barba casuale, verso l'alto. Esatto, no, sono giorni intensi, perché voglio dire, prima di iniziare questa puntata, che abbiamo cambiato server di Runtime, abbiamo aggiornato il software, abbiamo rimpostato tutta la regia automatica, abbiamo ricaricato tutto il materiale, insomma un lavoro mostruoso, e stiamo finalmente lavorando al sito. Quindi cose che avremmo dovuto fare due o tre anni fa, forse finalmente ce la facciamo. Quindi se ci vedete un po' sturbati insomma dalla questione, è per questo. Baldur's Gate, ragazzi, Baldur's Gate, io ho scelto voi due in particolare, uno perché Puccio l'ha finito già due volte, giusto? Quasi tre, perché ci sta ribadito. Io poi ho un trauma psicologico, ragazzi, anche se non potrò dirvi perché ho il trauma psicologico, però ve lo racconterò. E invece Leo, perché pur avendo giocato il primo atto, fondamentalmente lo ha giocato per 100 ore. Io penso, esatto, che sia un record incredibile. ce la faccio, però piano piano ce la farò. Ce la facciamo, infatti. Allora, Puccio, vogliamo fare un piccolo recap, insomma, in un periodo in cui quando è uscito Baldur's Gate, il primo Baldur's Gate, perché cerchiamo di fare anche una riflessione fra di noi per cercare di capire perché poi questo brand in particolare ha avuto successo in un periodo in cui uscivano tanti giochi di ruolo su PC. Principalmente perché l'ha fatto meglio, se volete un'opinione personalissima. I primi due erano, diciamo, curati con molta più attenzione rispetto a tantissimi altri RPG su computer che erano usciti in quel periodo. In più aveva due bonus: aveva il regolamento della versione di allora di D&D, che era la terza, e aveva come settings i Forgotten Realms, che sono l'ambientazione principe, probabilmente insieme a Dragonlance, tra tutte quelle disponibili per Dungeons & Dragons. Queste due cose messe insieme hanno catalizzato all'epoca l'attenzione di chi giocava a quel tipo di giochi, me per primo, e ne è nato un successo che è durato parecchio. Il primo Baldur's Gate ha avuto una sola espansione, che era la Costa della Spada, Tales of the Sword Coast. Io continuo a dire che non è stata all'altezza delle aspettative all'epoca, lo ribadisco adesso, e qualche anno dopo abbiamo avuto un seguito fatto persino meglio rispetto al primo, e non abbiamo avuto un terzo, perché alla fine la storia del tuo personaggio non si poteva chiudere per motivi, diciamo così, economici dell'epoca. Il 2 non aveva venduto abbastanza per giustificare un terzo episodio, e diciamo la trama principale è stata chiusa con un'espansione che era Il Trono di Bald, un'espansione che in realtà era un gioco a parte per quanto era grande, ma che aveva comunque il motore, le regole, gli asset, buona parte del gioco base del 2. E quando poi nessuno si aspettava più di sentir parlare di questo brand, dopo un paio di remake fatti più o meno bene, tante promesse, ci siamo trovati Larian, che dopo i successi di Divinity ci ha cacciato fuori. Poi ci arriviamo all'Arian, perché secondo me anche lì ci sono un paio di passaggi prima di affrontare, insomma. E Leo, secondo te? Relativamente ovviamente a quello che... Devo partire però dal presupposto che non sono nato nel periodo giusto, quindi non ho avuto modo di... Sei giovane. Noi no. In questo caso devo dire purtroppo sì, perché diciamo l'ho giocati dopo, ed è stato un po' come giocare Ultima Online dopo, quindi quando lo giochi nel periodo in cui esce, chiaramente è un'esperienza diversa. Sì, poi Baldur's Gate è il primo, cioè i primi, cioè comunque sono invecchiati, non dico invecchiati male, però insomma c'è del buono, cioè ho giocato abbastanza l'uno, il due praticamente l'ho quasi completamente skippato. Però ho notato che ci sono la formula vincente, poi non so perché del periodo non ne ho giocati tantissimi, però ho visto che si è ripetuta poi negli anni in altri giochi di successo, tipo per esempio Dragon Age Origins, che è uno dei miei preferiti, e quindi devo dire che effettivamente per certi versi è simile, quindi sono giochi che di solito, e negli anni 90 specialmente, uscivano overcomplicated, invece Baldur's Gate 1 era complicato ma il giusto, quindi profondo, ti faceva appassionare a D&D, ma pure se non eri un fan di D&D sfegatato comunque ci capivi qualcosa, il che gli ha dato un int extra per aiutare il player medio, e poi era libero ma non troppo, nel senso riuscivi, andavi in giro come volevi, però comunque sia venivi sempre guidato dalla main quest un pochino e riuscivi a starci dietro, rispetto ai giochi di oggi che spesso per fare troppo, poi chi troppo vuole nulla stringe, mega mondo, mega cose da fare, poi alla fine ti ritrovi che non hai combinato nulla e ti stufi perché devi andare dritto. Esatto. Ci guarda, puoi andare per tutto, però devi andare dritto. No, diciamo che allora la differenza è che per quanto Baldur's Gate avesse comunque un tutorial e tutto quanto, e che comunque, come dici tu, poi alla fine c'è una storia che guida un po', una main quest e tutto quanto, però diciamo che se oggi, per come siamo abituati a giocare con i segnalini, le cose e via dicendo, forse un gioco come Baldur's Gate potrebbe disorientare, no? Cioè, nel senso, da quel punto di vista è questa forse la grossa differenza generazionale, no? Perché se poi prendi, poi alla fine, come hai detto te, Dragon Age Origin, per esempio, è un gioco che prende da quei, molto da quei giochi lì, poi molto più, no? Poi vabbè, a parte tu che ci giochi a ultra mega assassini della morte, difficoltà incredibili, diciamo, per noi normali che giochiamo insomma a difficoltà normale, è chiaro che insomma lì la differenza secondo me un po' c'è, no, con i vecchi giochi del passato. Però secondo me Baldur's Gate oggi ripreso ti ricorda un po' Pillars of Eternity, con meno moderno, ecco, diciamo così, secondo me questa sensazione. Però perché secondo voi ci ha avuto veramente successo rispetto a tutti gli altri software, che cioè a tutti gli altri giochi che comunque ce n'erano veramente tanti all'epoca, insomma. Leo, sempre da te, poi torno io con una parola, devo riassumo quello che stavo dicendo prima nello specifico. La fruibilità rispetto al prodotto medio degli anni 90 era semplice, te lo aprivi, lo giocavi, non dovevi prenderti una laurea in D&D per capire quello che stavi facendo, i personaggi erano tutti simpatici, ci potevi cazzeggiare, avevano le storie loro, quindi cliccando scoprivi, ecco, era la semplicità di quello. Mentre altri giochi tipo Icewind Dale o altri un po' più complessi, com'era che se ne chiamava un altro, il Tempio del Male Elementale, che poi tra l'altro è degli stessi di Troika, no? Che loro hanno pure fatto ben pochi giochi, ma tutti fighissimi, però era molto complesso, cioè era un gioco che un bambino lo allontanavi, invece Balduro è riuscito a avvicinare un po' tutti quanti. Balduro, giusto. Balduro. Vai, Buccio. No, Baldur's poi c'aveva questo vantaggio che c'aveva 3 miliardi di opzioni nascoste, tipo... tu non vedevi il tiro dei dadi, cioè non vedevi quanto avevi fatto, vedevi l'attacco che andava a segno o meno in base agli effetti che ottenevi. Però se c'avevi testa voglia, andavi, ti sbloccavi l'opzione che ti faceva vedere il tiro dei dadi ogni volta che veniva eseguita un'azione, quindi potevi anche capire magari dove il tuo personaggio aveva bisogno di una spintarella in più, su quale caratteristica, quale arma dargli, eccetera eccetera. Ti permetteva di essere giocato sia al primo che al secondo a più livelli, quindi potevi farlo come se fosse una specie di avventura grafica con più azione, oppure potevi giocarlo come un gioco di ruolo tradizionale, potevi giocarlo a turni se volevi, o potevi giocarlo in tempo reale. Era più aperto anche rispetto a cosa devi giocare a turni, non me lo ricordo. Io mi ricordo che tu facevi le azioni, mettevi la pausa tattica se dovevi fare più azioni. Potevi configurarlo in modo che a ogni turno scattasse automaticamente la pausa, quindi diventava a turni, con i turni ovviamente dinamici. Questo non lo sapevo. Per esempio, Pillars of Eternity 2 ha messo la modalità a turni, che secondo me denatura completamente il gioco, perché se un gioco è progettato per essere in quella modalità lì, è difficile poi dopo riuscire a ibridarlo, no? Secondo me funzionava male, però vabbè, poi dovresti provarlo, però sai, Simo? No, l'ho provato. Il suo pubblico, io devo dire che cioè, praticamente è come se gira al contrario il gioco, nel senso tutto quello che fa abbastanza schifo perché in real time non funziona bene a turni diventa fortissimo. Io mi ci sono trovato all'inizio, all'inizio l'ho trovato castrante, perché chiaramente cioè i combattimenti sono molto più dinamici, no? A me piacciono i combattimenti a turni in generale, però in quel caso, visto che quello era comunque fatto in quella maniera, a parte che a me Pillars of Eternity 2 mi ha deluso, a tre quarti ho sganciato, devo dire. No, lo so. Non andava detta questa. Lo so. Io ho apprezzato tanto il primo e mi è piaciuto tantissimo il secondo fino a un certo punto. Poi la cosa delle navi mi aveva veramente scassato la minchia a me a un certo punto. L'aveva fatta male. Purtroppo è così. Veniamo alla Larian invece, che insomma, prima di prendersi briga, insomma, di prendere questo fardello, perché comunque ricordiamo che, diciamo, una cosa che possiamo dire tranquillamente è che Baldur's Gate, nonostante tutto, e a volte io farei anche una riflessione su questo, ha comunque dei fan che sono sopravvissuti negli anni, perché diciamo molti giochi si rifanno a Baldur's Gate, o quando esce un buon gioco di ruolo alla fine viene sempre utilizzato a termine paragone Baldur's Gate, che era comunque un signor gioco in effetti, cioè nel senso, senza discussione, però appunto prima di prendersi sto fardello hanno sperimentato, secondo me hanno costruito e migliorato questo loro framework con i quali sviluppano i giochi, che si basa ovviamente su un, diciamo, un discorso di combattimento con la tattica a turni e via dicendo, nel quale, facendo esperienza con i due Divinity precedenti, che io ho trovato belli, anche lì il secondo quello che c'è il cavaliere che si può ammassare. Non mi ricordo se era il primo o il secondo, comunque vabbè, sono arrivato a un punto in cui a volte quando mettono delle difficoltà iper difficili, cioè proprio delle cose che sono insormontabili, che quelli devi fare, che ti shottano, dici? Sì, no, che loro non possono essere uccisi, quelli neri con l'armatura nera, quelli con l'armatura scura, pare che siano nel 2 se non sbaglio. Sì. Oddio, no, se ci sono pure nell'1, sai. Vabbè, comunque loro hanno fatto una grandissima esperienza da questo punto di vista, costruendo ovviamente dei mondi tecnicamente apprezzabili, belli esteticamente, con un motore che funziona. Poi alla fine, all'interno di questo motore, che hanno comunque ulteriormente migliorato, hanno poi inserito proprio di tutto e di più su quanto riguarda le nuove regole, penso siano le nuove regole di D&D, no? A D&D. E con l'aggiunta di tutta una serie di calcoli probabilistici relativi ovviamente al gioco di ruolo, che dà proprio la sensazione, a volte nascosti, a volte palesi, insomma, diciamo così, anche se ci sono alcune cose che ti tira il dado, ma è una farloccata, però, cioè, nel senso, ci sono delle cose che devono andare in un modo, quindi che cazzo vuoi dire a farla il dado. Però dopo aver costruito ovviamente questa loro esperienza, si sono presi la briga di fare un Baldur's Gate con un mondo anche tecnicamente più apprezzabile, anche se compatibile insomma con i due Divinity precedenti, e è una giocabilità secondo me di grande livello. Insomma, voi che cosa ne pensate? Come vi siete trovati come primo impatto, partendo da Leonardo, perché il primo impatto secondo me è la cosa che mi interessa di più, poi dopo parliamo di come vi si è sviluppato, insomma, l'Ambaradam. Io ho goduto fortissimo, ti dico pure perché. È molto semplice la cosa, perché io sono enorme fan dei Divinity. E quindi a me non mi, cioè, a me che fosse stato Vampire the Masquerade Bloodlines 2 dall'alto, Baldur's Gate 3, qualsiasi cosa ci potevano mettere come IP. Però mi hanno dato da un lato Divinity 3 e sì, dall'altro mi hanno dato l'opportunità anche di entrare in un IP che non avevo mai esplorato completamente, quindi sono doppiamente contento della cosa, per cui nessuno, forse la Obsidian avrebbe potuto farlo bene, non so se altrettanto bene, ma comunque sia l'Arian secondo me attualmente ha lo schema migliore per fare un RPG top down. Ma io sono d'accordo con te, cioè nel senso, secondo me non era tanto il fatto che era solo Baldur's Gate, ma era perché era Baldur's Gate fatto da loro. Secondo me questo sì, da un cambiato lato c'è Divinity 3 quello, sì, c'è Divinity 3 a gusto, al sapore di Baldur's Gate, quindi perfetto. Assolutamente sì, al sapore di Baldur's Gate, con l'universo e tutta una serie di profondità comunque del gioco, poi magari dopo spiegheremo, insomma, stasera come vedete, insomma, ci siamo corti con il fiato. Puccio, il primo impatto, tu poi veramente ti sei proprio chiuso come la morte. Puccio? Sei mutato, Puccio. Puccio, non ti sentiamo. Tu ci senti? Attenzione. Ero mutato, scusate. Ah, il satellite, pensavo era il satellite. No, in realtà a me, partite dal fatto che penso, come non mi ricordo se Leonardo aveva fatto l'early access pagandolo in anticipo, sì mi sa di sì, proprio subito la day one appena l'hanno reso disponibile, preso sì, stessa cosa, io stavo proprio buttato sopra, quindi il primo atto me lo sono fatto più volte, anche troppe in realtà. Io ho avuto questa fortissima sensazione di ritorno a casa proprio con Baldur's Gate, perché superato la fase di creazione del personaggio, che diciamo è fin troppo ricca per certi versi, non come quella di Cyberpunk, quella continuo a pensare che sia inarrivabile, però c'è questa marea di opzioni che ovviamente prima non avevi, tutte queste nuove classi, nuove possibilità. Sì, poi diciamo che rispetto ai due Divinity, i personaggi che escono fuori sono di un altro livello. Abbiamo fatto proprio uno scalino. Puoi customizzare qualsiasi cosa, poi hai la possibilità di utilizzare i personaggi predefiniti che poi diventeranno i tuoi companion, i tuoi compagni di viaggio all'interno della strada se vai avanti, quindi mi sono trovato davanti tutta questa marea di opzioni fantastiche, ma soprattutto mi sono trovato a mio agio, sia perché alla fine lo schema di gioco era quello di Divinity a cui ero abituato, li avevo fatti tutti e due, però ti sentivi da ex giocatore di Baldur's Gate abbracciato da questa cosa, perché un po' c'erano richiami grafici nei menu, negli schemi che erano abbastanza evidenti, un po' stai in quell'ambiente lì, stai nel Faerun, sei nei è un po' come ritorno a casa, non c'è, per noi della nostra generazione è stato, un po', però con un enorme twist, nel senso che tu in Baldur's Gate alla fine, tolta una, diciamo, una parte finale nell'espansione del secondo, ti muovevi all'interno di, diciamo, di regioni note, non visitavi altri piani, non vedevi altre dimensioni. Qui parti col botto, sei su una nave illitid, sì, c'è uno scontro con i Githyanki e quindi finisci trasportato. Vabbè, diciamo è molto più moderno da questo punto di vista, cioè, proprio è molto più moderno anche perché segue l'approccio più moderno della che narrazione, ha preso poi Dungeons and Dragons anche come gioco di ruolo, che prima era non ti dava queste opzioni tra virgolette narrative che invece adesso ci sono. E poi comunque il fatto che tu hai il tiro di dadi visibile, che è una cosa che mi ha fatto impazzire. Alcuni tiri di dadi importanti, sì, sono visibili, tutto sono il resto visibili, è tutto in background, mentre invece quando ce l'avevi nei primi due Baldur's Gate tu avevi le opzioni con il tag, che ne so, prova di persuasione o carisma, eccetera eccetera, ci cliccavi sopra, però non sapevi che punteggio avevi fatto, ti diceva solo fallita o non fallita, o ti dava l'esito della discussione in quel modo. Questa cosa poi l'Arian l'ha fatta benissimo con il personaggio di Astarion, perché al di là del risultato del dado che tu ottieni quando fai determinate cose con quel personaggio utilizzandolo nelle conversazioni, entra in gioco il fatto che lui sia, come dire, naturalmente carismatico, naturalmente persuasivo, quindi sono riusciti anche a nascondere il fatto che ci sono dei modificatori legati al personaggio e non solo. Vabbè, ci sta, poi c'è questa sorpresa che io me ne sono accorto credo più o meno a metà della prima run, ma non l'ho tolta come opzione. In pratica lo stavo dicendo prima, che in realtà i tiri dei dadi in alcune circostanze non sono del tutto casuali, sono più, cioè ti impedisce di fare troppi critici o troppi fallimenti critici, però è un'opzione che puoi disattivare, quindi hanno pensato anche a quello, cioè anche trovare questo, come posso dire, questa finezza di tenere il gioco tanto che possano accadere troppi successi o troppe tragedie, ma anche darti la possibilità, se sei un purista, di toglierlo e quindi di giocare in maniera del tutto casuale. Ma mi ha fatto innamorare poi la narrazione, i personaggi, non sai, questa cosa neanche la sapevo. In effetti la parte degli opzioni è un po' devastante, perché cioè è infinita, è come il libretto di istruzioni, più le cose, insomma, cioè più le istruzioni che le impostazioni che le istruzioni in sé, insomma. No, anche perché istruzioni in realtà te ne dà pochissime, ma anche se ti vai a esplorare i menu più nascosti, alcune opzioni non te le spiega oggettivamente, quelle di gameplay devi andare tu a indagare e capire sì, che infatti cosa comporta, ho trovato un po' scomodo, diciamo fastidiosa un po' sta cosa. Va bene, torniamo un attimo da Leo. Vabbè, quindi vabbè, a parte il primo impatto, vabbè, voi poi avete deciso, diciamo, di comprarlo al day one come early access, cosa che avrei fatto anch'io, però oggettivamente devo ammettere che è vero che quelli early access era un po' una sorta di campagna di finanziamento, poi fondamentalmente, no? Cioè, nel senso, compratecelo così ci abbiamo i soldi per finirlo. Decisamente. Però vabbè, l'abbiamo aiutati, dai. L'abbiamo aiutati, però devo dire che però il costo, visto l'esito finale, meno male. Sì, però il costo non era a me, ma cioè, nel senso, oggettivamente per un gioco che non sapevo quanto potesse essere stabile, quanti problemi ci poteva avere o via dicendo, insomma, quanto era? 36 euro, mi pare, non sbaglio. Io mi ricordo 44. Era full price, era una cinquantina a prenderlo. Cioè, una sproposito, no? 45, cioè, senso, vabbè, il classico, ormai lo standard, anzi, pure poco, considerando il periodo che escono robe da 70-80 euro, a volte in early access, dici ma... Sì, però lì è una scelta poi del giocatore, no? Perché poi una cosa, cioè io quando feci una forte polemica fra me e me, perché poi chiaramente non è che mi cagava nessuno, però quando uscì il primo Pillars of Eternity, che uscì ovviamente col Kickstarter, se non sbaglio, sì, Ecco. Sì. Quando fecero la campagna per il secondo, lì io mi sono incazzato, perché ok, tu sei indie e non hai i finanziamenti per fare il primo, però il primo l'hai fatto, l'hai venduto, perché l'hanno venduto, e mi rivieni a fare la campagna di finanziamento per il secondo, è come un po' fa col culo dell'altro, insomma. A me ormai mi hanno fregato con l'uno, non lo so, dopo che avevo pleggiato l'uno mi hanno fregato pure col due, ho pleggiato pure quello avrei pleggiato pure il tre se avessero fatto il Kickstarter del tre, che non hanno fatto purtroppo. Che poi hanno fighi i personaggi, figa la storia e tutto quanto, però a me a quel punto, cioè, sono buoni tutti a fare impresa così, no? Nel senso, cioè, il primo lo posso accettare, il secondo è veramente una grossa paraculata. Tra l'altro, voglio dire, anche a rischio zero, tutto sommato, se vai a vedere, perché ci arrivano i soldi bene, se non arrivano i soldi. Sì, beh, però c'è da dire che era il periodo d'oro dei Kickstarter, in cui un po' tutti riuscivano a tirare fuori qualcosa da Kickstarter e ancora le persone si fidavano. Oggi è un po' più difficile. Però ci sono delle ragioni oggettive sul fatto che comunque alla fine sono arrivate delle un sacco di monnezzate, cioè... Sole monnezzate, cose che non hanno rispettato, ma pure Tim Schafer stesso con quell'avventura grafica che adesso non mi ricordo come si chiama, Broken Age, che tutti quanti insomma spiegavamo. Allora lui fece la prima parte, poi dato che gli sono arrivati un sacco di soldi, fece tutti quei meme con lui che navigava nei soldi. E poi alla fine ha fatto una cagata, cioè nel senso si è disperso anche nelle risorse che non pensava di avere, no? Cioè io penso sempre che quando IA prese BioWare dissero sempre, cioè il team di sviluppatore nerd non fa lo sviluppo del software partendo da una preproduzione anche finanziaria, cioè loro sono nerd, gli piace fa quello e vogliono fa quello, e questo ovviamente può creare dei problemi qualche volta, no? Invece chiaramente avere poi qualcuno che invece fa più la parte del tra virgolette padrone, che comunque ti dice guarda le regole sono queste, impostazioni sono queste, finanze sono queste, devi stare all'interno di questo tipo di discorso, allora c'ha senso. Invece quando tu poi alla fine tutto è basato sul fatto che i fan comunque ti danno i soldi a prescindere, a me sta cosa mi ha sempre dato fastidio, è un mio limite, lo posso anche ammettere, insomma. No, lo capisco, io, cioè, ti dico da scettico dell'early access la penso come te, fin quando però non arrivo a sentire la parola Larian, a sentire che ne so Obsidian eccetera, là mi fregano, ce la posso fare. Ciao Deborah. Vogliamo evocare l'elefante nella stanza e dire la parola Star Citizen? L'ho pleggiato Star Citizen. No, vabbè, ma allora a te ti devono levare il portafoglio, scusa. Vabbè, però lì c'è una nave piccola, non ho pleggiato navi grosse. Che tu hai pleggiato il gioco. Possiamo dire esatto, che lì è veramente Borderland. Sì, è borderline, cioè nel senso, scusa, Borderland è sì, borderline, ma cioè, mai, no, ma anche Borderland, anche Borderland, cioè nel senso che siamo veramente al limite di un'ombra oscura che a me non piace, oggettivamente a me non piace, così lo so che ridi perché te da ridi, però cioè nel senso sono colpevole, non lo so, ma sai, c'era un periodo in cui sembrava che avrebbero promettevano così tanto, c'era un non so che di politico in questo periodo di campagna in cui promettevano cose, eccetera. Ma sai che c'è, me lo prendo la nave starter e via. Ho preso una barchina, sa, $45 costava ai tempi, se non sbaglio, sì, ma i primi periodi. Va bene, dai, cominciamo a parlare del perché e del per come a un certo punto, perché aspetta, mi è rimasto il messaggio di Deborah in sovraimpressione. Cioè, nel senso, qui c'è a parlare del quando ovviamente avete iniziato ad approfondire poi il gioco, no? Perché ecco, Puccio già ha dato un po' alcuni pareri su quello che sono le meccaniche e già lo sviluppo del personaggio. Secondo me lo sviluppo del personaggio non soltanto anche lì è un po' derivativo dai Divinity, e allo stesso tempo c'è molto dei Dungeons and Dragons, c'è un po' di tutto, cioè dentro la palla, alla fine il costruire il personaggio seguendo quelle regole, quelle ambientazioni, quelle religioni, quelle ecco, costruire un personaggio anche coerente diventa più facile se tu hai familiarità, secondo me, con quel tipo di Aspettate, ragazzi, sto fa un casino. Aspettate, scusate. Ho visto un Carlo Sant'Agostino all'improvviso. No, scusate, mi sa che qualcuno non mi ha sentito per un periodo di tempo, vero? O no, mi avete sentito? No, no, okay. Sentivo. Ok, scusate, ho sbagliato schermo, stasera sto veramente fuso. Comunque, sì, un Carlo Sant'Agostino che non c'entrava niente. Ecco, parliamo di questa cosa, cioè approfondiamo anche da qua, cioè nel senso, comunque, secondo voi, creare un personaggio e farlo coerente con quello che è ovviamente quel tipo di ambientazione serve familiarità oppure... Leo? No, sono d'accordo con Puccio, non credo che cambi nulla. L'unica cosa che io non ho approfondito, perché tu lo sai, a me piace giocare tutto a super hard, però mi definisco un po' un hardcore casual player, un po' un mix delle due cose, un ossimoro, perché da un lato mi piace giocarlo difficilmente, però dall'altro non voglio min-maxare né imparare chissà che, voglio andare a tentoni se è qualcosa che per me è nuovo, come lo è in questo caso la struttura di Baldur's Gate, che non ho mai approfondito più di tanto se non giocando a D&D, ma non tantissimo. E quindi una cosa dei personaggi che non ho capito è se quei personaggi che ci sono, quelli diciamo costruiti nel gioco, esistono in qualche storia di, no, di Balduro vecchio, di D&D, di qualche se vuoi ti rispondo io, ma allora quelli che tu usi come companion basic, quindi Astarion, Karlach, Cuore Scuro, chi più ne ha più ne metta, semplicemente no. Quelli che trovi più avanti e che sono assolutamente opzionali, a meno che tu non ti impegni, quindi Jaira e Minsk, sì. Vabbè, li conosco perché li incontri, sì. Allora, intanto non cominciamo a non fa spoiler prima di tutto. No, okay. Non è spoiler, è nota come cosa. Anche perché Minsk l'ha doppiato Matthew Mercer di Critical Role, quindi insomma. Okay. Sì, vabbè, poi si vede nel trailer. Santa cosa. In realtà no, in realtà c'è, cioè, spoiler, ma tra molte virgolette, c'è una modalità di creazione del personaggio che è quello con l'istinto omicida. Mi ricordo se si chiama Death Wish. Quindi in pratica il tuo personaggio quando giochi c'ha le voci nella testa che gli pulsione dicono, oscura l'hanno pulsione detto. Oscura, è vero, oscura, strano, come noi. E ti dicono ammazza tutti, dai le pugnala, ammazza i bambini, queste cose così. Bello. Se fai la run poi ci aiuto il canale, grazie. No, ma vi dico, cioè, ci sono anche delle cose divertenti che accadono se giochi il personaggio così, tipo decidi di confessarlo, che so, a Karlach, alla Kitianki, dici guarda, ho una voce nella testa che mi dice di uccidere tutti, e lei risponde bene, perché ci sono tante persone da uccidere nel nostro viaggio. La Ezel è la Kitianki, mi pare, no? Karlach sì, è una... la Kitianki, Karlach è una tiefling. Esatto, sì. In realtà se giochi il personaggio in quella maniera, andando avanti c'è un collegamento proprio stretto con Baldur's Gate 1 e 2, ma devi averli giocati per capirlo, ma anche se non li hai giocati ti godrai il personaggio lo stesso, se li hai giocati lo capisci meglio, per carità, però non è strettamente necessario, come anche il fatto di incontrare Jaira e Minsk in qualsiasi modo tu decida di affrontare il gioco. Sapere chi sono, sapere il passato, i rapporti che hanno avuto con l'eroe di Baldur's Gate, bla bla bla, sì, è bello, ma non è fondamentale. Quindi lo puoi affrontare tranquillamente anche. Sto giocando con Oscura Pulsione, io te lo dico, Puccio, considera. Quindi proprio io alla cieca così. No, ma sono contento di averlo fatto. Cioè, io non ti dico niente. Proprio tranquillamente, sono contento della scelta che ho fatto, perché sapevo che sarebbe stato diverso da un playthrough classico. No, ma è bello, io ti dico la verità, io ho il cuore di panna, quindi arrivato a un certo punto sono riuscito ad andare avanti con Pulsione Oscura. Però è stato bello perché effettivamente è diverso, è una roba che non mi ricordo di aver fatto in giochi simili prima di questo. Allora, prima di andare avanti voglio prendere un attimo a spunto proprio Deborah, che è in chat, tra l'altro ha recuperato evidentemente il link. Poi Deborah, fammi sapere se è lo stesso link originale o se è il nuovo link, perché io non ci ho capito ancora niente. Per esempio Deborah era una persona che guardava, e questo secondo me è interessante come cosa, proprio il passaggio evolutivo all'Arian, cioè nel senso, secondo me a me piacciono come li fanno i giochi, quindi come ha detto Leonardo, alla fine secondo me vincono facile con me da sto punto di vista. Però secondo me questo passaggio in questo modo non solo l'ha modernizzato il gioco, ma l'ha reso anche più fruibile, anche se il gioco è difficile, Cioè, il gioco, se lo vuoi giocare bene, il gioco è difficile. Ok? Però oggettivamente Deborah era una di quelle persone che, guardando il gioco vecchio, dice no, no. Poi si è messa lì e ha iniziato a giocare a Baldur's Gate 3 e ci si è chiusa dentro. Come è successo a tutti poi, no? E per esempio, vabbè, adesso stava dicendo che lei piace tantissima la musica quando c'è la creazione del personaggio, che in questo momento evidentemente stava ascoltando. E ecco, secondo voi questo nuovo modello, quindi questa modalità di combattimento e questa maggiore fruibilità anche del come trovare gli oggetti, di tutte le cose, insomma, secondo voi è a vantaggio anche un giocatore magari meno esperto di questo tipo di giochi? Puccio, iniziamo da te. Oh, sì, sicuramente, ma si dice anche dal fatto che questo è un gioco di ruolo tra virgolette classico, cioè il fatto che sei riuscito ad attrarre gente che aveva mai provato prima, un po' per motivi anagrafici, un po' perché semplicemente non ci stessa, dice tutto. Il fatto che abbia attratto giocatori molto giovani che magari non avevano neanche mai giocato di ruolo dice parecchio, soprattutto il fatto, al di là delle meccaniche, al di là di bene il gioco, le persone, che grazie ai personaggi, li ha acchiappate anche grazie, le acchiappate molto grazie al doppiaggio, perché alla fine gli attori che hanno prestato le voci ai personaggi si sono costruiti un seguito. Io li seguo su TikTok, per esempio, un po' tutti, che è notevole, e loro veramente sembrano come dire, contenti di partecipare alla community di quel gioco, e sono contenti che abbiano attratto così tante persone così tanto diverse. Cioè, alla fine, lo dico per memoria personale, Baldur's Gate 1 o 2 erano giochi per appassionati. Sì, hanno venduto decentemente all'interno di una nicchia, ma non erano Doom, per capirci, non erano Quake come livello di vendita o come penetrazione tra i videogiocatori. Erano una cosa per appassionati. Questo gioco, un po' con le meccaniche, un po' con la tecnica, un po' con la narrazione, un po' con i personaggi, è diventato un fenomeno di massa. Cioè, sui social, io nel periodo dell'uscita di Baldur's Gate 3, TikTok era invaso da video di gameplay o da segreti, trucchi che si trovavano che si trovavano all'interno del gioco. Io ho scoperto cose che non avrei mai scoperto da solo, probabilmente, senza guardare quei video. E poi il fatto che comunque tu abbia questa interfaccia che ricorda da vicino le avventure punta e clicca, perché comunque c'hai questa roba molto esplorabile con il mouse che cambia in maniera contestuale a seconda delle azioni che puoi compiere con gli oggetti o con il paesaggio, facilita molto l'approccio al gioco. Non devi stare meno attento alle descrizioni, più attento a quello che vedi, più attento a quello che senti, a quello che dicono i personaggi, rispetto ai numeri del gioco di ruolo, alle statistiche del tuo personaggio. Secondo me ha vinto così. Leo? Beh, a me frega sempre il fatto che sono mega fan di Larian e dei loro titoli, quindi io penso che la struttura è così vincente che poi, vabbè, è comunque Baldur's Gate. Però se avessero fatto Divinity 3, un altro gioco con un altro nome, avessero fatto Necromanzia videoludica con un altro IP morto da 20 anni e messo, probabilmente sarebbe andato benissimo lo stesso. Sì, dal caso che abbiano pescato l'IP giusto, che comunque hanno messo dentro i player che già seguivano Larian per i giochi precedenti, i player che comunque seguivano Baldur's Gate e speravano in un seguito, e poi tutti i curiosi nuovi, trainati chiaramente da youtuber che fanno, che ne so, video, magari, ecco, persone che hanno giocato ai vecchi Baldur's Gate, appassionati di RPG eccetera, e praticamente sono riusciti a far bingo, hanno preso tutti, perché non c'è una persona su Steam che non abbia Baldur's Gate tra i miei amici, praticamente l'hanno comprato tutti quanti, anche chi non lo gioca, chi magari non è riuscito a fare gli achievement più fessi del gioco, che implicano letteralmente giocare 2 ore, però comunque bene o male se lo sono comprato tutti. Io no, purtroppo non posso dire la stessa cosa, non so fino a che punto potrò svelare il mio malcapitato, perché sono stato un malcapitato, devo dire. Intanto Deborah ci dice che l'attore che ha fatto Astarion è stato candidato come miglior performer al GOTY. Vabbè, l'ha vinto, l'ha vinto. Ok. Ha fatto anche un discorso di accettazione molto bello, perché ha detto tipo? No, perché in pratica, vabbè, senza fare spoiler, diciamo che il tratto principale di Astarion è quello di essere sopravvissuto a un trauma, mettiamola così. E lui ha spiegato che più andava avanti nel doppiaggio del personaggio, più la storia del personaggio veniva fuori, più lui riusciva a capirlo meglio, perché non è entrato nei dettagli. Ha detto: anch'io sono un sopravvissuto a un evento molto brutto, molto simile a quello che ha vissuto Astarion, quindi ho empatizzato molto, e quindi più andavo avanti con la storia più capivo che voce dovevo dargli e come dovevo viverlo, perché diciamo, in un certo senso, la Astarion che tu incontri all'inizio e che tu ti immagini dopo le prime ore di gioco è la superficie di un personaggio molto più sfaccettato, molto più complesso. È stato bello vedere l'attore che gli ha dato la voce e portarlo sul palco in quella maniera. C'è Deborah che ti contesta perché i GOTY ci stanno il 7 dicembre. Vi linko il premio. No, non saranno gli stessi GOTY, però ora se poi dei GOTY ce ne saranno altri, sì. 40, sì. Comunque, in generale, a me come personaggio, se devo dire la verità, inizialmente l'ho trovato un po' stereotipato. All'inizio, sì. All'inizio mi sembrava un po', capito? Sono buoni tutti a farlo così il personaggio, no? Un po' il vampirla, un po' così, insomma. E poi forse piano piano, quando incomincia a uscire fuori anche la storia, no? Allora lì forse magari ci sta anche, no? Che comunque il personaggio inizialmente era un po' così, no? Quasi repulsivo, poi dopo piano piano diventa anche più interessante, no? Non so se Leo è d'accordo. Ti posso dire che non ce n'è uno che non mi sia piaciuto, perché ognuno ha il suo, e sto ancora finendo l'early access, quindi posso solo pensare che vada a migliorare la faccenda, ma succederanno cose pazzesche. Già me lo aspetto. Già qualcosa nel primo atto di Fotonico è successo. Sono successe già cose incredibili. Ho fatto esplodere quella poveraccia, senza fare spoiler. Lo sapete, no? Che c'è un momento in cui esplode una persona, la fai a pezzi. Tanto se fate un altro personaggio non lo potete sapere, non vi dico chi è che viene fatto a pezzi. E quindi succederanno cose, io penso che sono tutti interessanti, da Cuore Scuro, che anche lei c'ha qualcosa da nascondere, Astarion c'ha qualcosa senz'altro, Gale che già ci ha fatto capire qual è la sua problematica non indifferente, Karlach che devo capire bene perché lampeggia e che problemi c'ha, quindi no, secondo me sono riusciti a, nonostante siano i classici personaggi, nel senso c'è la personaggia carina, c'è quello che sembra un acchiappone, diciamo gli stereotipi ci sono, come dici te Simo, però gli hanno dato quel tocco extra di fantasia che li rende comunque tutti interessanti. Non so se siete d'accordo. Sì, assolutamente. Devo dire che io era tanto che non mi chiedevo così in un gioco, devo dire. Questo è vero che io sono uno di quelli che cerca di non giocare giochi di cui sa di avere una passione particolare, perché so che poi mi ci chiudo veramente. Cioè io per esempio ho fatto, penso, le prime 35-40 ore del Baldur's Gate in 3 giorni proprio, e non dico una stronzata. E infatti poi secondo me a volte, se poi succede l'elemento che in qualche maniera mi distacca dal gioco per un motivo tecnico qualsiasi esso sia, poi io ne rifuggo proprio, cioè proprio lo shock io da sto punto di vista, e quindi dico vabbè, prima o poi lo riprenderò. Mi è successo tante volte questo anche con i miei amati Fallout 3 e 4, anzi no, il 4 non è amato, fa schifo, però i miei amati Fallout 3 e New Vegas, che comunque ovviamente lì centinaia di ore immerso in quel mondo, come sapete bene io ho il cassetto pieno di tappi e non dico una stronzata. È l'emergenza. E non dico una stronzata, insomma, quindi ma più passano i mesi più io sono convinto che tu abbia ragione, cioè stiamo lì per, capisci? Sono tempi strani questi, quindi tocca fare sempre un po' attenzione. Ma comunque per la cronaca mi avete fatto venire il dubbio, sono andato a controllare io finora e non ho finito, ho giocato di gioco completo Totto Early Access 184 ore. Non voglio andare a vedere l'Early Access, vi giuro. Cioè, penso che l'unico numero di ore simile che ho fatto l'ho fatto a Hollow Knight, ma su tre piattaforme diverse. Quindi Puccio stai dicendo che sono separati i due launcher? Sì. Perché io li stavo sommando, quindi ho giocato 80 no. ore solamente di atto 1. No, no, no. Okay. Però, scusa, anche se sono separati, però tu recuperi salvataggi. Sì, no, no. Cioè, devi ricominciare da capo il gioco? L'Early Access sono in realtà non è che sono separati. Io mi ricordo io sono capace da fuoco a casa per una cosa del genere. Cioè. Io mi ricordo che mi ha zerato il contatore quando è uscito il gioco completo, però non ti so dire se è stato dovuto al fatto che ero uno di quelli che era incappato nel bug che prevedeva che tu dovessi togliere l'installazione dell'Early Access, cancellare tutti i salvataggi locali e poi riscaricarti il gioco completo. Quello era un classico che è successo, mi sa, più di una volta, con le varie patch grandi. Io chiaramente l'ho disinstallato e reinstallato poi un anno dopo, perché l'early l'ho fatto una singola volta, ho detto ok, ho visto tutto, arrivederci, ci rivediamo quando esce la 1.0, perché non la volevo giocare 100 volte. Però devo dire che ecco, mo c'ho 80 ore e l'atto 1 manca ancora l'Underdark, mancano un po' di cosine, quindi penso che arrivo a 110 ore, ci arrivo tranquillo. No, tieni presente che a me 184 ore sono due run complete più mezza fatta con oscura pulsione. Sì. No, ma all'inizio sapevo anche, cioè il primo atto, avendolo fatto più volte nell'early access, sono andato dritto perché sapevo cosa mi interessava, sapevo cosa potevo saltare, e quindi. Ma quindi non sei uno che raccoglie tutto, che va con la bisaccina piena. La prima nell'early access sì, poi quando giocavo nel primo atto ho smesso, anche perché. E poi l'ho fatto nel secondo e nel terzo, tanto è vero che avevo l'inventario di tutti i personaggi stracolmo, anche perché me l'ho dimenticato e c'era già l'opzione che tu ti puoi selezionare col control più oggetti, fare tasto destro manda all'accampamento, che è una cosa che ti risolve la ma hai appena svoltato la vita, Pucci. Grazie, io me ne sono accorto tanti. Meno male, almeno prima della fine dell'atto 1 riuscirò a prendere le cose non una. Personalizzati, molto figo che li personalizzi, per carità, però ci perdiamo un botto di storia. Vabbè, niente, ragazzi, questo software funziona di merda, posso dire che funziona di merda, e questa cosa mi delude moltissimo, perché poi nella finestra dell'anteprima il play funziona bene col volume a zero. Poi quando dall'anteprima la passo alla schermata dello streaming, c'è la voce di Leo a palla, perché sennò mi sarebbe piaciuto mettere un po' di video anche sotto, insomma, ma sti cazzi con cui stiamo parlando. Cominciamo a parlare un po' del gioco anche dal punto di vista tecnico, rispetto ai Divinity, quindi ovviamente a quelli che sono i predecessori, no? Perché questo abbiamo detto è un po' Divinity 3, insomma. Quali sono le sostanziali differenze, miglioramenti, e che cosa veramente vi sta piacendo di questo gioco? Dal punto di vista tecnico intendo proprio del gameplay, piuttosto che della grafica o delle cose di cui possiamo anche parlare dopo, insomma. Vai Leo. Ma allora, a me viene un po' da compararlo, chiaramente, vabbè, sempre rimanendo sui prodotti Larian, però farei anche un parallelismo con Pillars of Eternity 2, che negli ultimi 10 anni è l'unico altro RPG che, come sia tecnicamente che qualitativamente, è vicino, perché le altre cose che sono uscite sono abbastanza delle porcate, alcune sì, cose, però sono delle carature diverse, cioè Pillars of Eternity è diverso come gioco, ma soprattutto certo. È anche diverso tecnicamente, perché poi alla fine non c'ha tutto l'engine dietro, certo, no, però hanno preso delle cose buone anche da quello, sicuramente. Hanno preso spunto, perché è chiaro, hanno preso quello che era vincente dei loro giochi e l'hanno trasportato su D&D, quindi il gioco, una delle cose principali è che è più complesso, ci sono più tooltip, più cose da leggere, perché c'è poco da fare, è D&D. Mentre una cosa che era molto vincente, che l'hanno trasportata parzialmente però non del tutto, dei Divinity, era che era tutto molto semplice, cioè c'avevi quelle 10 spell, 20 spell, non erano 400, non c'era roba incredibile da leggere come più lanci di statistiche, di salvezza, tiri salvezza, cose extra, era tutto molto lineare, nel senso sta spell fa questo, fa quest'altra cosa, spazza via il nemico, fa questo, il nemico se cade prende tot danni. Era piuttosto semplice. Quindi questo l'hanno trasportato e l'hanno complicato, e a me piace perché rende il gameplay più profondo. Però sostanzialmente la base di Divinity è rimasta, l'interazione con il mondo intorno, le varie cose che puoi tirare, che puoi distruggere, che puoi far crollare addosso ai nemici sono sempre là, e quelle sono cose vincenti. Non vedo tutta sta grossa differenza. Secondo me hanno fatto proprio, quando si sono accorti, hanno fatto brainstorming e hanno detto: regà, squadra che vince non si cambia. Sì, sì, secondo me sì. Teniamo tutto così, lo facciamo flavored in stile D&D a posto. Sai, sì, ma è più polishing che novità, in effetti. Sono più meccaniche pulite. Bravo, bravo. Esatto, anche io faccio questa osservazione qua. Sì. Perché comunque abbiamo detto che comunque loro, dall'esperienza che hanno fatto, ne hanno tratto, hanno oramai un sistema solido, quindi è inutile andarci a mettere le mani più di tanto, se non per modificare regole, regolamenti o cazzi vari, che poi alla fine sono funzionali alla sensazione di questo non è il gioco Tizio e Caio, ma è il gioco Dungeons and Dragons, no? Cioè, nel senso, alla fine questa è un po' la sensazione. L'interazione, come dice Leonardo, c'è, fondamentale, anche se mi ricorda, secondo me, in piccolo. E questo, secondo me, forse evidentemente apre un po' una nuova generazione dei giochi di ruolo basati su AD&D Solasta. Perché pure su Solasta, alla fine, fai rompi i ponti, tiri giù i sassi, sposti le cose, spingi le persone di sotto. Non so se ci avete giocato. No, ho visto dei video qua. Giocato e lasciato abbastanza velocemente. Perché proprio per lo stesso motivo che dicevi tu. No, no, schifo no, però era stereotipato, nel senso, sì, è il solito gioco, sì, non è ispirato, sì. Vabbè, ci ho giocato qualche ora, ho visto che la storia era la classica storia, i personaggi erano i classici personaggi, meccaniche no, quello, ho detto boh, ne ho giocati tanti così e non mi ha spinto a, anche perché poi con l'età diventi un po' più selettivo perché manca il tempo, quindi sì. Ho detto: che faccio, dedico questo tempo a sto gioco oppure no? Il problema è che a me mi capita talmente poche volte di giocare un gioco così, cioè proprio con quel meccaniche lì, che alla fine quando mi capita mi faccio andare bene più o meno, insomma, quello che capita. Quindi posso dire che non è un gioco ispirato, non è, insomma, della caratura, insomma, di Baldur's Gate, però almeno alla fine non mi è dispiaciuto, insomma. Però alla fine la cosa che mi faceva tantissimo ridere, io nei video di Leo ho visto tante volte, è che Baldur's Gate 3 in particolare, ma probabilmente succedeva, non so, forse probabilmente anche sui divini, Dio, non mi è mai capitato a me personalmente perché io vado un po' per le mazzate, è che tu in condizioni di disperazione puoi uccidere una persona anche con una zucchina. Assolutamente, a pochi danni, però lo puoi fare. Cioè, metti che gli è rimasto un punto di vita e tu sei ancora peggio di lui e ti è rimasta la zucchina, tiri la zucchina. A me facevo, c'erano dei certi video che mi faceva troppo ridere. C'eravamo sentiti male noi tirando zucchine e salami, me lo ricordo. Bravo, bravo. Favore. Io ho riso come un pazzo perché mi faceva ridere, poi ripensandoci l'ho vista come una criticità, cioè raga, sta cosa è una stronzata. Invece poi l'ho rivalutata perché anche quello, tutto sommato, ci può stare, perché sei in una battaglia, sei in un momento in cui sei in difficoltà, tiri in salame addosso a uno, quello perde equilibrio, casca e muore, ci può sta, insomma, non è che è una cosa così inverosimile. Certo, se poi dopo diventa una costanza che tu con 15 zucchinate ci ammassi in una persona, è chiaro che c'è un problema, no? Lo puoi fare con tutto adesso, tra l'altro, non so se hai visto le ultime puntate, l'abbiamo fatto con i cadaveri e altra roba abbiamo lanciato pure con le ossa, no? Che c'era il buon Benson, pace all'anima sua, che lanciava le ossa contro il nemico in una delle sue famose canzoni e devo dire che ci siamo divertiti. Adesso mi hanno abbandonato, se tutti abbandonato nel let's play, i ragazzi che giocavano con me, perché vabbè, sono indaffarati, però devo dire l'inizio è stato veramente divertente. Guarda, prendite il Puccio, portate il Puccio a fare. No, faccio orari strani adesso, è capace che alle 7:30 prendo registro. De mattina? No, 7:30 no, però 8:30 sì. No, di solito sono catramato alla scrivania in quel momento. Se lo guarda volentieri. No, però, però tu sei uno che sarebbe anche, cioè, sei, cioè saresti anche predisposto alla fine, magari, che ne so, uno ah, alle 10 sera famo sta cosa, tu ti metti lì e sì, potrei probabilmente, sei, esatto, se, sì, se non cascassi dal sonno la maggior parte perché sei vecchio, sì. Poi purtroppo contro la vecchiaia si può fare poco, insomma. Faccio 46 anni a marzo, insomma, rendetevi conto voi del proprio dell'anzianità debordante che mi devasta. Ma volete sapere una cosa che mi ha fatto crepare tra le meccaniche di Baldur's Gate 3, che vi giuro ho riso come una bestia? Il parlare con gli animali, perché sono stati talmente tra virgolette stronzi alla Larian che se tu prendi la pozione o ti lanci l'incantesimo puoi parlare con tutti, gatti, topi, tutto. Ci sta. Io, ma questo no, pure su Pillars of Eternity mi pare che c'era una ma la cosa più figa io l'ho beccata per puro caso in un punto dove Simone si è divertito tantissimo, la vecchia strega, mamma mia. Ok, tu quando arrivi senza fare spoiler, si arriva in un punto, siamo nell'atto 1, in cui c'è una capanna con abitata da una vecchia. Se si supera un check di percezione, ti accorgi che quello che stai vedendo è illusorio, in realtà l'ambiente è tutt'altro, è una palude e ci sono delle caprette che girano. Sono pecore. Se tu superi il check di percezione, le pecore restano pecore, però in realtà sono degli gnomi travestiti. Qual è la cosa fighissima? Che se tu superi il check di percezione, ovviamente gli gnomi travestiti non lo sanno, non se ne rendono conto. Se tu ti bevi la pozione parlare con gli animali e provi a parlare con una di queste pecorette, rispondono però con il font della voce umana. Beh, beh, beh, fino a quando non compri un'azione che li porta a scoprirsi anche loro, che può essere colpirli, farli finire su una trappola, eccetera, eccetera. Quindi sono stato in grado di prevedere che tu saresti arrivato lì, che avresti svelato l'illusione, ma che gli gnomi travestiti non se ne sarebbero resi conto e che se tu usavi la pozione di parlare con gli animali non avrebbe funzionato. No, ma infatti la cosa, più divertente è il fatto che loro, se tu arrivi a svelarli, loro all'inizio non se ne accorgono. Tu puoi anche non farlo, cioè nel senso puoi anche arrivare. Sì, no, non è obbligatorio. Esatto, cioè nel senso poi vabbè, ovviamente poi dopo c'è tutta una cosa che si sviluppa a secondo te come tu poi l'approcciata, sei avvantaggiato, svantaggiato e va bene. Però in generale loro, cioè il fatto che questi non se ne accorgono e nel senso, anzi, lo gnomo a un certo punto c'è il gnomo con cui poi interagisci, dice ma che cazzo vuole questo? Certo, ovviamente, ma senza andare troppo avanti nella trama, cioè ci sono due parti nell'atto secondo dove se prendi una pozione per parlare con gli animali, usi l'incantesimo e parli con una mucca molto specifica, succedono delle cose fantastiche. Io vi consiglio, parlate con le mucche. Se vi capita, perdete tempo, usate il druido, castatevi addosso con gli animali e parlate con le mucche. Le mucche sono la svolta questa, eh? Parlare con le mucche. Ma parlare con i morti invece siete, io non sono riuscito ancora a utilizzare. Non lo puoi fare sempre, però funziona molto spesso. Quindi Deborah c'è già arrivata la parte delle pecore. Vabbè, ok. Ma ci credete, se non l'aveste detto voi, io quella parte lì degli gnomi chiaramente l'ho fatta. Non ho neanche ricollegato il fatto che quando poi ho seccato gli gnomi non c'erano più le pecore, quindi per me era finita lì, non c'è mai stata quella scena lì. Se voi non l'aveste detto, per me era, cioè era finita, ero passato, faccio delle pecore, poi sono ripassato sugli gnomi, degli gnomi, uccidiamoli, arrivederci, era finita lì. E poi ero andato dai cosi volanti. Invece io lì ho incontrato un bug che mi ha dato veramente fastidio, infatti ho dovuto rifare tutta quanta la parte, perché anche col salvataggio comunque rimaneva il bug, no? Che era quello che non potevo entrare dove dovevo entrare, insomma. Ah, il fatto del caminetto lì, esatto, sì. Se mi ricordo. Ma come l'avete fatto fuori lei? Così. A schiaffi. Ah, okay. Io tutte le volte che l'ho uccisa non sono mai riuscito a lootarla perché l'ho sempre buttata. L'hai buttata giù da, sì. Tutte le volte. No, lì la rottura di scatole è che devi farlo prima che cada la gabbia, quindi devi mandare qualcuno tipo col passo velato dove c'è l'ingranaggio, bloccarlo così c'è più tempo e poi... Ma lo sapete che io mi ero fermato lì? Perché io quando supero poi il pezzo lei sta dentro e non riesco a farla uscire praticamente. Vi posso dare, ormai possiamo dare un consiglio a chi ci sta ascoltando. Prima di arrivare lì, nell'atto 1, voi avete sicuramente incontrato Volo, il bardo che poi si trova imprigionato. Ok. Mm. Fategli fare tutta la roba che vi vuole estrarre il tadpole, la larva dall'occhio, perché se lo fate fare fino alla fine, il vostro personaggio prende un'abilità costante, permanente, che è vedere l'invisibile. Quella entro 9 metri. Quella cosa contro la vecchia assassina lì è meravigliosa, vi risolve un sacco di problemi. Avendolo fatto io, quando sono arrivato lì, per quello sono riuscito a batterla a schiaffi, perché riuscivo a vedere le cose che lei nasconde con gli incantesimi di invisibilità. Ok. Però io l'avevo fatto questa cosa, poi però il mio personaggio è morto e non avevo salvato da non so quanto, probabilmente, quindi ho dovuto, quando io sono riandato dai goblin che lui stava dentro, no? Non l'ho più trovato, cioè quando ho dovuto rifare tutta la parte, io non ho più trovato proprio Volo, cioè non so che fine aveva fatto, quindi non sono riuscito. Vabbè, prima o poi ti capita all'accampamento, cioè viene da solo se non lo trovi tu. Ah, ok, vabbè. Come l'avvizzito, lo puoi trovare. No, l'avvizzito io ho fatto tutta la quest, me la sono fatta, è stata una delle prime cose che ho fatto addirittura, figurati. Sì, ma hai fatto bene perché è utilissimo. Infatti io l'ho fatto più tardi, ma vabbè. Invece quell'altro lì, il cavaliere col fuoco dentro. Senza l'avvizzito è tosta. Cioè, senza l'avvizzito è praticamente ingiocabile, cioè almeno che non almeno saranno schiattate veramente 10 volte le persone durante e sono andato avanti grazie a lui, se no avrei lui le altro bug che ho incontrato, le cose. Altro bug che ho incontrato è che a un certo punto mi sparivano i personaggi, e allora siccome questa cosa mi era successa anche su Divinity, però poi dopo ricercando, tornando indietro sui miei passi, i personaggi erano morti e quindi per forza erano spariti, li ritrovavo morti, mi pare, adesso potrei dire una cosa così. E quindi infatti io, Buccio, con te ne abbiamo parlato, diceva: ah, Buccio, sì, a me sì, sono spariti i personaggi, vai dall'avvizzito che te li risuscita. Andavo dall'avvizzito e mi diceva: t'a posto, cioè c'è nessuno da risuscita, quindi dove cazzo stanno sti personaggi? E più andavo avanti nel campo e più sparivano personaggi, allora dico: no raga, qui c'è un problema. Fino a che a un certo punto si sono piano piano, ma non tutti insieme, un po' per volta si sono rimaterializzati. Sì, ma quel bug l'hai riscontrato? Io non ho trovato nessun altro che l'abbia avuto. Però a me mi è successo, ho fatto pure i screenshot, che non c'avevo più i puntini verdi sul campo, non c'avevo più, erano spariti. Alla sulla fine me ne è rimasto uno solo, e poi quando sono andato a parlare, passando, mi è riapparso uno, e poi sono riapparsi piano piano tutti là. Una cosa assurda, cioè. Stava le pature, quello è la cosa del camino della vecchia, per me è stato su Divinity. Comunque c'era la possibilità di resuscitare, lo potevi fare sempre, quindi il problema non si poneva neanche qua. Chiaramente hanno seguito la linea di D&D che resuscitare mi pare che ce l'ha solo il chierico a livello 8 a livelli alti, oppure devi andare dove sta un chierico che lo paghi e lo fa per te. Ma più o meno Baldur's Gate 1 e 2 era così, cioè o avevi tu il chierico di livello alto e nel primo non ce l'avevi fino alla fine del gioco, oppure dovevi aspettare di tornare in città, andare in un tempio, ammesso che nella città dove stavi il tempio ci fosse, e chiedere l'incantesimo di resurrezione. Quindi qua semplicemente te l'hanno messo nell'accampamento. Quanto si ammuccavano su Baldur's Gate 1 esentasse questi qua? Sì, no, 100 monete d'oro, ma era all'inizio. Vabbè, qua però l'avvizzito fa i soldi veri, non so com'era, se c'era inflazione su Baldur's Gate 2, poi a seconda del livello del personaggio saliva, cioè 100 mi pare fosse la base. Allora adesso vi svelo, perché giustamente anche Deb giustamente mi dice: lei non ci ha mai, non ha riscontrato bug. E devo dire una cosa, faccio una confessione, io non lo faccio mai, voi chi mi conosce da anni non lo faccio mai, però ero talmente in fissa che volevo giocare con Baldur's Gate, ma in quel periodo non c'avevo soldi, cioè nel senso c'avevo soldi ma li dovevo indirizzare per cose molto più importanti, se spenderli per Baldur's Gate sarebbe stato un po' un problema. E a quel punto che ho fatto, sono andato su Alkis, praticamente ho cercato e non c'era la chiave per Baldur's Gate, no, cose come Kinguin, robe genere, non c'erano a prezzo pieno e via dicendo, però c'era lo so che potrei avere problemi per questa cosa che dico, ma io la dico perché me ne frega un cazzo. Ma non è illegale, eh? Ok. Ho comprato un account Steam di un russo. Ok, quindi praticamente io ho comprato questo account, l'ho pagato pure, perché poi alla fine, cioè, invece di pagarlo 50 euro avrò pagato 25, però ero talmente in crisi che volevo giocare a sto gioco che alla fine me lo so comprato, quindi ho messo sto account russo, che poi mi hanno segato, tra l'altro dopo un paio di settimane me l'hanno segato, quindi è andata così, fratelli. Però forse è uno dei motivi per cui ho incontrato i bug, perché magari non c'erano aggiornamenti o cose del genere, non lo so, però insomma era strana, no, sta cosa. Però il gioco funzionava bene, era tutto in italiano, io mi sono salvato tutti i salvataggi fisici, perché Puccio mi ha detto sì non ti preoccupare, vai tranquillo. io già lo so che il giorno in cui me lo compro, perché mo fra un paio di settimane me lo compro, me lo ristallo e tutto quanto, vado a mettere i salvagli, sono sicuro che non funzionano un cazzo, già lo so, capito? E lì le paturnie. Però diciamo che è un po' come quando ho giocato per la prima volta a Divinity 1, al primo Divinity, che praticamente, che poi non è il primo, perché c'era un Divinity pure prima, che però era tutto un altro tipo di gioco, e che comunque con l'esperienza, quindi quando hai imparato gli errori che hai fatto, dove hai sbagliavi, come affrontavi le quest, la rifacevi con maggiore disinvoltura, che secondo me è il motivo per cui tante volte i giochi vanno anche rigiocati. Però io poi ho sta filosofia che secondo me quando mi finisce una storia non la voglio cambiare, capito? Però ecco, in questi casi invece la facevo, e quindi probabilmente insomma ricomincerò da capo, lo so già che dovrò ricominciare da capo. Mi dispiace perché mi ero affezionato al mio personaggio, però mi hanno chiuso l'account, non adesso giudicatemi male. Ma che personaggio avete fatto, per curiosità? È una bella domanda, vai Leo. Il mio lo sai, Oscura Pulsione. No, ma classe, razza? L'ho tenuto stock proprio così, me lo dava. Quindi, Stregone. Dragonide Bianco. Dragonide Bianco, perché era super figo, non gli ho cambiato nulla. Stregone. Anche gli altri stock l'ho voluto. È come un po'... A me piace gli altri, se lo danno i personaggi. Sì, ma tutti li puoi modificare. Come sono fatti. Però sono cresciuto con i giochi che ti davano i personaggi. Cioè, nel senso, se ne voglio fare uno e modificarlo, lo creo. Lo chiamo Giampaolo qualcosa. È il personaggio mio creato. Quelli del gioco mi piace tenerli così e immaginarli come li hanno immaginati i dev quando l'hanno fatti. Tutti quanti, quindi ho tenuto tutti stock e uso solo personaggi stock, cioè Astarion, Cuore Scuro e Karlach in parte. Io invece ho fatto personaggio assolutamente custom, era un bardo draconide dorato. Sì, Francesco, mi hanno fatto l'embargo. Sì, esatto, t'hanno sanzionato. Hanno fatto l'embargo sull'account. E ho usato l'avvizzito solo con Cuore Scuro, perché volevo cambiare la classe da dominio, metterla sul dominio di guarigione, dominio della vita, perché sostanzialmente i poteri da chierico che ha lei col dominio del trickster ti fanno curare molto poco, cioè era una roba abbastanza ingombrante da portarti dietro, che non era efficace, almeno nel modo in cui volevo tenere io il party. Quella è l'unica modifica che fare. Adesso li ho tenuti tutti uguali, non ho cambiato niente. Gli altri l'hanno moddate, però scusate, mo ci stavo a pensare, perdonatemi, perché gli altri personaggi non l'ho giocati subito io, quindi gli altri sono stati leggermente modificati con le classi, ma a livello estetico no. Io tendo a non cambiare comunque le cose. Io già, allora, sui giochi come Baldur's Gate preferisco farmi il personaggio, perché prendere uno dei personaggi significa avere un personaggio in meno, tra virgolette. Non so se capite il senso. Quindi in realtà me lo sono fatto il personaggio. Però in generale a me, se c'è una storia dove c'è un personaggio, mi prendo quello. Cioè non è difficile che mi metto. Io per esempio su Westland 3 non mi sono rimesso a fare i personaggi. Cioè, ho preso una delle due quattro coppie, quelle che è. Ne ho scelta una, che era quella che mi piace di più, e ho usato quella. Grande gioco pure quello, ragazzi. Cioè, giocatelo se vi capita, perché ci sono dei momenti di... Due. Eh? No, ho giocato solo il 2, manca il 3, però ho letto belle reti. Beh, guarda, il 3 c'ha dei momenti di follia che, vabbè, comunque è Fallout come dovrebbe essere, poi, fondamentalmente. Però io non lo so. Fallout riportato alle origini, sì, in effetti. Sì, sì, no, il 3 poi è, ci sono dei pezzi, ragazzi, cioè tipo che tu stai a un certo punto in un posto dove c'è la statua parlante senziente di Ronald Reagan, e c'è praticamente sto combattimento con sotto la canzone di Alleluia, cioè è una cosa, cioè tutto, cioè sembra una scena di un film, è una cosa talmente assurda che, perché poi alla fine è quell'umorismo macabro incredibile, insomma. Ecco, una cosa per esempio, su, tornando a Baldur's Gate, che mi ha molto ricordato, cioè mi dava proprio la sensazione di Divinity, è sta cosa che trovi proprio spruzzate di sangue in giro, cose, creature morte, squartate, insomma, sbratti di sangue, sbratti, sì, di sangue dappertutto, che mentre che su Baldur's Gate, cioè su Baldur's Gate, su Divinity magari la prima volta ci trovavi l'evento inquietante e quindi volevi investigare, forse lì nella prima parte di Baldur's Gate sta cosa è un po' troppo accentuata, cioè ce ne stanno troppi di spruzzate di sangue a destra e a manca, non so se siete d'accordo. È più visibile, ma in realtà non so, in realtà non sono molto disturbato. No, ma non è una questione di disturbo, però sai, quando tu cammini per un posto e a un certo punto trovi un qualcosa di macabro, la prima cosa che ti viene in mente è: cazzo, voglio investigare. Se poi il dopo campo ne trovi degli gnoll, eh? Là, sì, tipo il campo degli gnoll all'inizio, nell'atto 1, quello si è. Capito? Poi dopo, quando si ripetono troppe volte queste cose, dopo alla fine ci fai, poi si, vabbè, ma sti cazzi, insomma. Tu, Leo, non te frega un cazzo. Ma sapete che c'è? Che in realtà lo apprezzo, e non ci ho fatto caso, perché adesso che l'avete detto ci ho fatto caso che effettivamente rispetto ai giochi precedenti l'Arian è un po' più sanguinolento il gioco, però da... essendo abituato a giocare a giochi sempre RPG o ARPG tipo Path of Exiles, no? Che è molto cruento, mediamente diciamo non ci faccio caso se c'è un po' di sangue extra, però sicuramente c'è più violenza rispetto a ma è anche un gioco più cresciuto proprio rispetto, sì, a, sì, no, vabbè, quello so, però se tu prendi ve ne so quando è uscito Dragon Age Origins, che era già un gioco dark. Lì facevi il bagno di sangue. Esatto, però lì era un gioco dark. C'era, cioè, la Marchesa di Bethory. Invece tu qui, quando tu cammini per nella prima parte di Baldur's Gate in particolare, che tu c'è il sole, tutto verdeggiante, insomma, una natura rigogliosa, e poi sprazzi le sangue dappertutto. Cioè, a volte mi stonava, capito? Cioè, un po' così. Ma sai, quando vai più avanti compensano, perché tipo quando arrivi a Baldur's Gate, cioè il bordello dove puoi pagare le prestazioni, c'è una scena nascosta fuori di testa completamente, dove contratti una prestazione con due gemelli maschio e femmina dei drow che vivono lì, cioè ci hanno messo di tutto, sangue, sesso, non so violento. Se riusciranno mai a battere il nano col martello di Dragon Age, quello era qualcosa, quello di insuperabile. Ancora me lo ricordo, stupendo. Quello ancora adesso me lo sogno, ti assicuro. Il nano col martello. Però mi ha lasciato parecchio confuso, ancora oggi non l'ho capito che è successo nella stanza, ma lo lascio così. Può essere un po' successo, confuso. Come può essere non successo. Non lo sai, però comunque è benvenuto questo sangue extra, secondo me, ragazzi. No, ma non ci un sta extra, allora, che... A me non è il problema del sangue, a me il problema è che quando in questi giochi di ruolo, questo mi succedeva anche con altri, c'è l'evento inquietante, cioè quello che è improvviso, ti viene da fare l'investigazione, vuoi sapere che è successo, capito? È anche un po' macabra come cosa, però è figa come idea. Tu ti metti e dici, ma qui, cioè, qui è successo qualcosa che non c'entra un cazzo con tutto quello che devi fare tu, però ci sai, investighi. Quando poi vedi più situazioni, forse diciamo scollegate fra loro, e là a quel punto diventa un po' particolare. Però ci sono delle quest secondarie che sono importanti anche per salire di livello, tipo quella del come si chiamano quelle che stavano sugli scogli, che col canto facevano le sirene, che poi non erano sirene alla fine, vabbè, c'avevano, diciamo, sì, le, c'avevano le ali praticamente. Adesso non mi ricordo, arpia, sì. Bravo, ecco, ok, non mi veniva, che praticamente facevano affogare Cassino se tu non intervenivi o via dicendo, insomma, pure quella è, cioè, a volte hanno queste questa impronta così un po' diversa dall'atmosfera che rimane molto standard quasi a un certo punto, fino a che non vai avanti. E poi ci sono queste cose veramente inquietanti che tu devi intervenire, perché veramente poi alla fine ti dispiace, no, che succedano di cose tipo, insomma, sto ragazzino che panda lì, insomma, poi alla fine magari si affogava pure, o non so se lo rapivano, che ce lo facevano, lo magnavano, non mi ricordo. Comunque, ecco, insomma, ci stanno tutta una serie di situazioni extra che le devi andare un po' a capà, come sui vecchi giochi, come sui precedenti giochi, perché se tu segui prevalentemente la quest principale più qualche quest parlando qua e lì, te perdi invece tutto quello che incontreresti se fai proprio l'esplorazione a tutto battuto, cioè, nel senso, infatti la prima cosa, cioè, dovevo andare da una parte, quindi la prima cosa che faccio è mi faccio tutta la costa dall'altra parte, e lì incontri vari eventi, varie situazioni, incontri oggetti, e poi, ecco, le storie quelle mancate, cioè, tipo, che ne so, la lettera che ti racconta di una storia che è, tu ti domanderai, incontrerò mai questa persona a cui consegnare questa lettera? A volte sì, a volte no, cioè, ecco, questi sono un po' tutti quegli elementi che da un gioco di ruolo come questo, molto complesso, mi piacciono tanto, anche perché, e qui vi faccio un'altra domanda, avete avuto la sensazione che veramente la struttura ruolistica, non intesa più dal punto di vista dell'interpretazione, ma proprio rispetto alla potenzialità di sviluppo del gioco, quindi le possibili ramificazioni, come abbiamo fatto l'esempio prima delle pecore e dei nae, dei gnomi, no? Che questo gioco sia veramente a livelli incredibili, vada proprio a strati su strati su strati. Allora, cioè, hanno, come posso dire, si sono comportati come se fossero dei master, quello intendevo dire, di gioco di ruolo studiata molto molto molto bene, è quello che mi ha colpito. Poi, se vai a leggere i titoli di coda, ci hanno avuto dei consulenti di un certo rilievo, cioè gente che sta all'interno di Wizards of the Coast, eccetera eccetera, quindi, diciamo, sono tutti elementi che sono anche riusciti ad attingere da più fonti, oltre il fatto che, ve lo dico perché partecipavo alle discussioni durante l'early access, di idee ne sono venute fuori tantissimi, ah, problemi di consigli, molte cose le hanno prese dalla comunità, è anche uno dei motivi per cui l'accesso anticipato è durato tanto, perché alla fine il contributo che avevano da chi giocava si capiva che era sostanziale, ma non tanto per le cacate tipo sta animazione fa schifo, cambiatemi le armi, nerfate questa classe, era proprio sulle meccaniche che loro poi andavano a fare le modifiche seguendo i consigli di chi ci stava giocando. Leo? Beh, allora, però ritorniamo all'inizio, perché siamo andati un po' verso la community eccetera, partiamo dalla domanda iniziale che era sulla parte ruolistica. Io sono d'accordo con tutto quello che ha detto Puccio, però devo dire che trovo una difficoltà sostanziale, questa vale per tutti quanti i giochi, nonostante questo ti faccia proprio infilare nei personaggi alla grande, che tendi un po' ad avere un effetto interruttore con i videogiochi rispetto al gioco da tavolo, perché quando sei al tavolo entri nel personaggio e l'interruttore lo spegni quando hai finito, quando t'alzi dal tavolo. I videogiochi purtroppo questo non riescono a fissarlo, almeno certo, per me, e quindi l'interruttore si stacca ogni volta che muovo il personaggio, sostanzialmente, quindi sto ruolando quando parlo, ma poi quando mi stacco che sto muovendo il personaggio, combattendo, non sono più il personaggio, sono semplicemente il burattinaio, e questo fa sì che io mi debba ricordare quando entro nei dialoghi, devo dirmi ok, sono l'oscura pulsione, devo scegliere quello che sceglierebbe lui e non quello che mi sembra più sveglio per me, quindi non la scelta che magari mi fa prendere un più uno o un oggetto migliore per il party perché il burattinaio pensa che sia la cosa giusta. Questa è una cosa che devo dire è difficile togliere questo effetto on off, però devo dire che l'Arian ci è riuscita piuttosto bene, e quindi riesci a ruolare forte col gioco che hanno fatto. Che poi in realtà, come dicevo, cioè non è tanto l'interpretazione che puoi dare, no? Perché chiaramente un videogioco a meno che non ti dà una tabula rasa, no? Come personaggio tabula rasa, che tu, però in realtà poi alla fine il modo in cui tu interagisci, il fatto che hai dei personaggi molto caratterizzati, in linea di massima, se tu prendi un personaggio predefinito, poi in particolare è quello, tu interpreti quel personaggio lì. Però la cosa, che il modo in cui tu interagisci col mondo è veramente a mille strati, perché come abbiamo detto le cose possono cambiare anche solo per una statistica, e non è soltanto il fatto di riuscire o non riuscire ad aprire la porta perché il dado ha detto che non c'hai la forza per aprirla, è tutte le molteplici conseguenze che ci stanno intorno a una cosa del genere. E cioè lo sviluppo di un gioco come questo, secondo me, sta proprio lì, cioè la grandezza di sto gioco sta nel fatto che ci sono, il fatto, come diceva Puccio, il fatto che loro prevedevano che c'era questa situazione piuttosto che quest'altra, piuttosto che quest'altra e quest'altra e quest'altra, e quindi da lì si ramificavano delle conseguenze, e quindi c'erano tutta una serie di sottostrati ai quali magari tu allo stato più in fondo non ci arriverai mai, perché la tua cosa è lineare e vedi le pecore e vai dalla vecchia, ad esempio, ritorniamo al discorso. Altrimenti, se sei un po' più smaliziato, fai cose che fanno succedere altre cose, e quindi e secondo me è lì il role playing che loro hanno sviluppato al massimo livello. Forse era questo quello che intendevo, perché è ovvio che se prendi il personaggio predefinito, il personaggio quello è, al massimo dici, oh, se io fossi lui come mi comporterei, però poi alla fine del gioco, per le finalità del gioco, quello che è lo scopo tuo è cercare di raggiungere un obiettivo, no? Cioè, se no tu quando giochi del ruolo con gli amici, dal punto di vista rolistico potresti andare addirittura oltre, e quando trovi, perché diciamo la struttura è che loro hanno fatto come l'hanno fatto in maniera egregia, ogni problema ha 20 soluzioni e quelle 20 soluzioni, due andranno su destrezza, due su forza, due su intelligenza, certo. E quindi però addirittura uno potrebbe, esatto, si potrebbe addirittura ruolare così forte dal vedere una soluzione e dire no, però questo no, non è quello che, non è la soluzione che sceglierebbe il mio personaggio, quindi ne trovo un'altra oppure tiro dritto. Questo addirittura è una cosa secondo me avanzata proprio super, però la cosa figa è che ci hanno aperto la possibilità a rigiocare il gioco 20 volte. Infatti tra un po' ci sentiremo con Puccio e dice l'ho finito qui 25 volte, sto facendo la build del codice di intelligenza per vedere se riesco a aprire quel lucchetto. Sì, questa però è la cosa che a me mi infregna sempre tantissimo, che tu sai che non aprirai mai tutte le cose, non aprirai mai tutti gli scrigni, non sbloccherai tutte le trappole. Questa è la cosa che a me, per quanto se c'hai un party complesso riesci a fare insomma più o meno quello che ti serve da fare, però poi ovviamente non arriverai mai a fondo al gioco, no? Che poi questa cosa delle meccaniche ruolistiche intese come statistica di potenzialità, cioè nel senso tu quella cosa la puoi fare o non la puoi fare a secondo di quello che hai sviluppato e a secondo di quello che tu hai sviluppato e le statistiche, è una cosa che oggi incominciamo a trovare anche in tante avventure grafiche, ad esempio, no? Alcune avventure grafiche stanno ibridando questo concetto, cioè nel senso che tu la storia la porti avanti, cioè quel passaggio lo fai se a secondo di quello che hai sviluppato tu durante l'arco della storia hai la forza di aprire quella porta, però ovviamente il gioco deve prevedere il fatto che se tu non c'hai la forza di aprire quella porta in qualche altra maniera devi andare avanti, perché sennò il gioco è finito, cioè non esiste il gioco che ti dice basta, è finito il gioco, non c'ha senso, no? Nel senso, a parte se muori poi ovviamente ricarichi, ecco. Quindi diciamo, la cosa che a me mi sta affascinando molto in questo periodo qua è proprio vedere quanto i giochi di ruolo, che sono puramente giochi di ruolo, vanno oltre, proprio perché altri generi iniziano a ibridare i loro stessi concetti. Non so se vi è mai capitato di osservare questa cosa, oppure è una paranoia tutta mia. Carmine. No, ma l'inserimento degli elementi GDR è anche roba... è da un po' che dura, cioè ci sono i fan di Assassin's Creed che si lamentano perché hanno inserito le dinamiche GDR in Assassin's Creed da un certo capitolo in poi, cioè c'è ampia letteratura. Io faccio l'esempio di cui abbiamo parlato tantissimo, che è Disco Elysium, no? Che è Disco Elysium, se tu mi fai la domanda, ma è un'avventura o un gioco di ruolo? Tutte e due. E tutte e due, però un'avventura di ruolo praticamente, però è tutte e due al massimo livello. È chiaro che su Disco Elysium non ci sono i combattimenti, però la parte ruolistico, statistica, evolutiva, quindi la crescita del personaggio, le perk, tutto quanto, sono funzionali comunque a una storia, ma poi cioè puoi morire lo stesso, cioè non c'è il combattimento come lo intendi tu, però cioè, il personaggio può morire, no? Per altri ragioni. Ha le sue caratteristiche, può morire affogato, avvelenato, ubriaco, depresso, okay. Suicida, può succedere qualsiasi. E quindi, cioè, a me è questo quello che, cioè, oggi lo sviluppo di un videogioco come Baldur's Gate sta alla grandezza, non tanto alla qualità, alla bellezza del motore grafico, al fatto che comunque prende un brand famoso e riconosciuto, ma sta al fatto che comunque c'è una stratificazione, un lavoro dietro che è un lavoro della Madonna e che è incredibile, perché comunque l'hanno fatto con le risorse che loro avevano a disposizione. E se tu pensi che giochi che costano centinaia di milioni di euro non c'hanno, non intaccano neanche la superficie di questa struttura qua, cioè, e questa è la cosa che... So qual è il gioco da qualche centinaia di milioni di euro avete giocato voi ultimamente, però ecco, giusto, incriminato Star Citizen, esatto. Ma senza arrivare tanto, ma non delivera proprio, almeno per ora. No, io non vorrei aprire parentesi perniciose, però Starfield, bella la trama, bello il mondo, bello bello tutto, però due palle. Io ero deluso prima di comprarlo, infatti non l'ho comprato. Ma i giochi Bethesda sono belli dopo quando escono le mod, ma centinaia per i pacchetti interi. Sì, secondo me Bethesda si è persa per strada un pochetto, cioè nel senso che già loro quando hanno portato Fallout e Elder Scroll nella nuova generazione, diciamo che hanno riscosso le bestemmie di chiunque, però poi alla fine secondo me, cioè Skyrim e Fallout 3 secondo me erano dei buoni giochi alla fine, al netto di tutti i problematici che ci potevano sta, perché per quanto le storie erano relative, comunque l'universo funzionava, cioè i mondi erano vivi in qualche modo e diciamo la lore era talmente importante che funzionava. Secondo me piano piano più sono andati avanti, hanno voluto inserire tutta una serie di meccaniche per rendere i giochi multiplayer, per rendere i giochi più appetibili magari per tutti, che poi alla fine secondo me hanno snaturato completamente. E a me Starfield, che era un gioco che mi sarebbe piaciuto anche comprare, non lo so, ho letto troppe cose che di cui io avevo già paura in qualche maniera e quindi ho lasciato proprio perdere, insomma. Io te l'ho sintetizzato su Telegram. Sì, sì, me l'hai quindi sintetizzato. L'unico che l'ha giocato sei tu, Cuccio. Sì, ma ho fatto tipo una ventina di ore scarse, ma okay. Io spero di provarlo prima molte o poi, passate a guardarmi intorno, il tempo scarseggia, però io posso, vi tiro fuori una cosa che secondo me è un po' un denominatore comune a tutti quanti i giochi, perché leggevo il commento di Deb che dice che Skyrim è il suo gioco preferito in assoluto, e parlava della musica, della creazione del personaggio prima. Down to the River, sì, che è diventato un meme. I giochi che ti rimangono in testa per sempre devono avere possono avere meccaniche strane, storie strane, grafiche strane, però il comparto audio è sempre fotonico. Sì. Se non c'è quello non c'è il gioco di qualità assoluta. Non te lo ricordi un gioco incredibile se non c'ha una musica fantastica. Sì, poi dipende. Ancora quando sento Seconda di Skyrim e l'emozione. Sì, io però poi dipende anche dal feeling che tu c'hai con un certo tipo di ambientazione, no? Io sono sempre stato un pro fantasy in generale, però devo dire che Skyrim e Fallout 3 mi sono piaciuti entrambi, ma Fallout 3 per me è stato proprio un rapporto d'amore in generale, no? E anche lì c'è una caratura del suo, cioè tu quando senti le prime due note, cioè è Fallout, basta, cioè la capacità di riconoscere, capito, un prodotto è come la musica low, Indiana Jones, Indiana Jones, basta. Sì. Che gli vuoi dire, no? E la stessa cosa quando tu senti quelle due note gravi, no? E poi si apre il menu, no? Cioè, cazzo. Ma è Fallout. E quindi sono d'accordo con te, Leo, che secondo me con te, con Deborah, insomma, con tutte le persone che poi alla fine comunque fanno questa osservazione, che in generale secondo me comunque il comparto audio è la parte importante, fondamentale, anche perché anche se nella vita reale non esiste la colonna sonora, vedi il Griffin là che voleva Peter quando c'era la colonna che voleva la colonna sonora per quando si muoveva, è incredibile, però cioè, tu quando sei lì in un mondo e ti stai immergendo in quel mondo, quel suono, quelle caratteristiche. E la prima volta che mi è successo veramente in maniera intensa è stata su su Ultima 7, cioè Ultima 7 che c'aveva le musiche a secondo dei posti dove stavi, se eri nel pub, se eri... sì. Cioè, sì. Tanta roba, ragazzi. Cioè, e per essere diventato immortale un gioco come Ultima 7, che sono passati oramai 30 anni? Sì, abbastanza. Ok. Quindi sono d'accordo con Debole, sono d'accordo con voi, insomma, perché poi alla fine, cioè, l'audio è una parte veramente fondamentale, la musica e i giochi di ruolo che c'hanno, cioè per esempio oggi ho rivalutato, io ero un gioco, una persona innamorata di Mass Effect in generale, no? Innamorato proprio perché per me era un'epopea sci-fi incredibile che non c'era mai stata nel mondo dei videogiochi per PC. Poi però riguardandolo col passare del tempo, infatti con Deborah magari pure nelle sue chat ci scherziamo sopra, no? Cioè mi viene da pensare, no? Cioè questo sta lì a 3 minuti dall'estinzione di ogni forma di vita sulla faccia della galassia e le sta a pensare a scopà, questo sta a pensare solo a scopà, no? E ti rendi conto quanto poi alla fine... Se ti mancassero 3 minuti di vita, che penseresti, Simo? Cioè, mi sembra... 3 minuti sono pochi per qualsiasi cosa. Beh, dipende, una certa età sono un sacco di tempo. Cioè tipo... grazie, quello puoi concedere. Grazie. C'è anche il tempo se fumi per le sigarette. Ma volete sapere un gioco che secondo me... No, però scusa, finisco di dire sta cosa, è che Fallout, perché me lo ricordo oggi più di tutto, quella è la colonna sonora. Perché la colonna sonora del primo Fallout in particolare ti dà proprio quel senso di mistero, di spazio, di inesplorato. Non so se ve la ricordate un pochino, cioè era bellissimo. Sì, era dici no Fallout, Mass Effect. Ah, io me le ricordo a memoria tutte perché è una dei miei, cioè come fantascienza secondo me è la trilogia più bella, i giochi più belli mai usciti. Allora, se andate a vedere si usa, cioè tipo stanno le playlist di musica di Mass Effect, quelle a loop per studio, sì, azione, sì, assolutamente radio. Io me le metto in macchina quelle quando c'ho da fare un viaggetto un po' lungo, sì. No, io ora ho scoperto le radio di Cyberpunk, tra l'altro scoprendo che con Phantom Pain c'è, cioè una radio che tu puoi ascoltare anche in game, che sono selezioni musicali e remix fatti in persona da Idris Elba, che ha una carriera parallela di musicista, e gliel'hanno fatta inserire nel gioco. Devo dire, roba notevole, cioè non so se è una forma mia di autodifesa che dice non puoi dire qualcosa che ha fatto Idris Elba è brutto, perché se glielo dici in faccia ti fa un culo come una casa. Vabbè, però questo quanto è grosso. Sì, vabbè, ma sti cazzi. Io 1,74 su. Tu lo sai che io dico cose in faccia anche a persone 3 volte più grosse, quindi non è che mi frega niente, insomma. Sempre con il dovuto garbo, ma ficcante, insomma. Comunque, vabbè, dai, comunque, ecco, sta cosa degli strati e delle colonne sonore è assolutamente importante. Sa, vabbè, facciamo un giro finale di pareri. Leo, iniziando da te, cosa proprio ti senti di dire, perché questo gioco comunque continuerà a piacermi anche negli anni, proprio da appassionato, anche nel modo in cui tu giochi in co-op. Ricordiamo che si può giocare anche in co-op, insomma, magari con le persone con cui sei più affiatato, cioè magari più cognizione, siete tutti un po' allo stesso livello anche di difficoltà, insomma. È difficile dirlo perché non ho ancora superato l'atto 1. Vabbè, ma tu... Ma quello che mi riporta poi in tutti quanti, perché sono due le cose principalmente, ormai mi sono studiato da solo, lo so benissimo, perché ho quei 3-4 giochi che ricomincio ciclicamente, no? Uno di questi è la trilogia di Mass Effect, eccetera. Quindi sostanzialmente sono due le cose che mi riportano a rigiocare i giochi. E quindi sicuramente questo capiterà anche su Baldur's Gate 3, perché... diciamo la via mi sembra quella giusta. Una è la qualità eccelsa della narrazione, quindi se un gioco narrativamente è bello ed è bello riviverlo, è un po' come rivedersi per la 40ª volta, che ne so, Cowboy Bebop o Evangelion o quello che sia, no? Perché puoi passare, no. Sembra puoi passare un altro po' di ore con loro, no? Ma tutto questo vale pure per i film, tutto quanto, o certo, rileggere certo, un libro, sì, dai, no? Sì, quindi se la narrazione è di qualità, sono contento di ripassare del tempo con i personaggi in quel mondo. Questa è una. E poi l'altra è la musica. La musica, c'è poco da fare. Cioè, Skyrim me l'ho reinstallato qualche tempo fa perché ho visto un reel dove c'era seconda, per l'appunto. E, tra l'altro, un reel che c'ha un sacco di visualizzazioni, magari l'avrete visto pure voi, di un tipo con i capelli piuttosto lunghi, più lunghi dei miei, che sta giocando a Skyrim di notte. A un certo punto si alza e fa vedere che il gioco è così immersivo che lui si alza, si mette dentro Skyrim insieme a Cargio, si mettono lì, non so se era Cargio o se era Josargo, comunque uno dei due micioni si mettono là a guardare il cielo e basta, e c'è seconda di sottofondo. Ho detto, beh, ma frega, me lo devo reinstallare infatti. Adesso me lo rimetto. Basta la musica, queste due cose qua secondo me ti danno la longevità assoluta ai giochi, almeno per me. Sì, no, poi volevo precisare quello che ho detto su Mass Effect prima, è che l'ho sempre considerato come una grande trilogia sci-fi, per me era un'epopea. Poi il problema è che questo innamoramento che ci ho avuto poi alla fine piano piano un po' si è assopito, perché mi è dispiaciuto il fatto che tutta la parte narrativa è andata un po' sciacquettandosi un pochino, insomma, non so se... Ti dirò di più, tante lucche fa mi sono fatto autografare una copia di Mass Effect da Drew Karpyshyn, che era uno dei, tra l'altro, autore di una marea di libri di Star Wars, motivo per cui l'avevano invitato, ma è uno degli autori di Mass Effect, tanto somiglia tantissimo a Homer Simpson, proprio uguale. Però no, arriva proprio con i pantaloni corti, c'ho delle foto con lui appresso. Figata. Sì. No, in realtà io avevo accompagnato una persona che lavorava per Rai 4 e abbiamo provato a prendere il discorso Mass Effect, ha messo la mano sul microfono, ha detto io c'ho un NDA con Electronic Arts, perché volevamo chiedergli il finale, l'avete cambiato come, perché, e lui ci ha proprio fermato, ha detto no, io di questa cosa non posso parlare. Potremmo fare una puntata sul finale di Mass Effect 3, che mamma mia, ma cioè il problema è che secondo me la storia si è andata un po' dissipando, cioè per esempio ci sono alcuni elementi nel primo capitolo che poi sono spariti nel secondo, tutta una serie di cose che a me un po' mi sono dispiaciute, e questa cosa, capito, del ci stiamo estinguendo quindi scopiamo, che è una cosa che mi dispiace, ma lì per lì mi faceva ridere, mi ha fatto molto sorridere, però poi alla fine in realtà mi ha dato fastidio. È vero che poi tutto dipende dal tipo di rapporto che tu c'hai e che scegli, no, come giocatore di gioco di ruolo, no, perché poi magari tu poi rimani iper fedele, no, per tutta la trilogia, insomma. Però ecco, sta cosa mi ha un po' disturbato, cioè non so, qualcosa mi ha disinnamorato, come si dice, esatto, di Mass Effect, che per me è stato forse un amore forse troppo acceso, però con una sola ora era qualcosa di grandioso, insomma, sì. No, volevo precisare sta cosa perché poi prima mi è caduta la linea, non so per quale ragione, quindi insomma spero che sia. Vabbè, a te è una certa ora cade sempre. No, ma in realtà era tantissimo che non succedeva, però il cane è passato sopra il cavo dell'Ethernet, evidentemente. Vabbè, c'è il cavo sensibile. Sì, c'è il cavo sensibile, sì. Vabbè, dai ragazzi, è stato bello. Volete aggiungere qualcosa? Che non uscirà probabilmente mai un'espansione, perché l'Arian ha detto che gli incantesimi sopra il 12° livello, cioè modificare la realtà a desiderio maggiore, cioè, ha detto che diventa impossibile gestire i personaggi, diventa, quindi, roba da fare al tavolo. Alcune spell funzionano solamente al tavolo, così. Tra l'altro c'è poco, no, da fare, cioè alterare la realtà, dopo, cioè, che cazzo, come fai? Squarcio nello spazio-tempo. Gioco poi, favoloso. Che poi, tra l'altro, se voi vedete una cosa intelligente, secondo me, è come ha fatto, mi pare, forse proprio Origins, Dragon Age Origins, che tra i vari DLC ce n'era uno che era sulla barda, se vi ricordate. Sì. E quindi era un po' ricominciato da capo, no? Sì, era una sorta di mini episodio spin-off, e quindi era un po' cominciato da capo, insomma, cioè nel senso, senza dove, perché io pure lì ero arrivato, cioè ero traslucido, cioè nel senso ero immortale praticamente. Su quel gioco, cioè, arrivi a un certo punto in cui sei una pseudo divinità, insomma, così. Sì, pialli tutto. Però era fatto bene il fatto che potevi automatizzare i personaggi in maniera, sì, molto approfondita, cosa che, sì, poi negli altri non c'è più, no, stata. No, no, gli altri era fighissimo. Gli altri diventano dei libri tra l'action e... Giocavi un po' a RPG Manager, praticamente. Sì. A me piace un botto come cosa. No, era figo, era figo. Ce l'aveva pure Poe, tra l'altro, quella RPG Manager. Pillars of Eternity, sì. Sì, gli davi delle... Anzi, forse lì era un po' più dettagliato, se non mi sbaglio. Sì. Va bene, dai ragazzi, giocate a Baldur's Gate 3. Perché andate a Baldur's Gate. Andate a Baldur's Gate, prendete il treno da Segrate, la fermata dopo di Segrate, c'è Baldur's Gate. E tra l'altro fatelo se avete del tempo e se siete particolarmente più giovani di noi, perlomeno di me, perché 52 anni. Mia moglie mi vede giocare a Baldur's Gate, poi mi dà le botte sulla schiena e dice: devi lavorare. Vabbè, comunque detto questo, giocateci perché è veramente figo. Se avete voglia, insomma, magari di interagire con qualcuno di loro due, li trovate, insomma, Alawin è il canale, quindi Alawin è scritto con la Y, è importante, andate, iscrivetevi, attivate la campanella, guardatevi i video, guardatevi le live, mettete like, condividete, aiutatelo, perché insomma, come tutti i canali, meritano di essere ovviamente accresciuti. Grazie, accresciuti. E Puccio invece non ce l'ha il canale, Puccio è con noi da Runtime Radio, tornerà anche lui prima o poi a fare qualcosa. Vado a tango. Tornerai pure anche tu a fare qualcosa di tuo, insomma. Però questo, insomma, adesso oramai lo vediamo. Guarda, facciamo un patto: quando esce Silksong, il seguito di Hollow Knight, ti prometto che faccio il gameplay integrale. Il gameplay integrale. Ok. E vi ringrazio a tutti, ragazzi. Ci vediamo domani sera, come vi è stato già illo tempore detto, con un episodio molto carino, secondo me, di quando eravamo futuro. Parleremo appunto del come si campava, insomma, negli uffici nel 1979, quindi usi, costumi, comportamenti, educazioni o maleducazioni varie, ma soprattutto la tecnologia dell'epoca. E venerdì sera invece c'è Marco e Olivia con Ho visto cose, che parleranno del film di Mad Heidi, insomma la versione un po' trash, insomma, diciamo, di Heidi, che infatti la puntata si intitolerà Heidi ti sorridono i morti, insomma, che mi pare anche, insomma, giusto come tipo di titolo. Io ringrazio Carmine Buccio Console, ringrazio Leonardo Alawin, quindi andate, insomma, sul canale e tutto quanto, e ci vediamo alla prossima puntata, che parleremo di Minecraft nelle prossime puntate. Prossimamente vi diremo anche quando e come, con un episodio che si intitolerà Minecraft ti chiedo scusa, perché io parto da un presupposto, da un pregiudizio che ho avuto nella mia vita per questo gioco per colpa degli youtuber, poi fondamentalmente, poi conoscendo e approfondendo, insomma, mi sono reso conto che è un metagioco, cioè non è solo il gioco in sé quanto tutte le madosche che ci si vanno dietro. Buonanotte a tutti. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.